Vendo tutto di Matteo Caccia. Tra poco più di 2 settimane siamo a Riva del Garda. I racconti e desideri continuano ad arrivare. Storie di abiti, di automobili, di biciclette ed orologi. Desideri di viaggio, di ringiovanimento, di patenti e di brevetti. Voi continuate a scrivere, io continuo a vendere. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita, succede a tutti e stavolta è toccata a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un portafoto. Ho cominciato a leggere e a comprare i fumetti Bonelli all'età di 19 anni e ho smesso attorno ai 33. Ho cominciato poco dopo la fine della maturità e ho finito quando per me sono cambiate tante cose. A 33 anni mi sono come svegliato da un lungo sonno e ho fatto un esame di coscienza. Il risultato? Mi sono fatto schifo. La collezione è rimasta nell'abitazione dei miei genitori nonostante abbia fatto 3 traslochi. Adesso è il momento di darla via, a chi la vuole, per farci ciò che crede meglio. Tutta la collezione va in vendita domenica 6 giugno 2010 al mercato di Sesto Fiorentino. I primi 20 numeri originali, però, di Nathan Never, li lascio da parte per questo concorso. Questo è un pezzo del racconto che ha inviato Gianni Dugheri, o Dugheri, che si intitola 6 giugno 2010, per partecipare a Vendo Anch'io. Di se stesso Gianni scrive: mi chiamo Gianni, abito a Firenze. Alla faccia della globalizzazione ho sempre vissuto a Firenze e dintorni. Mi sono laureato in statistica. È la prima volta che provo a partecipare ad un concorso come questo e avendo più familiarità con i numeri che con le parole mi sento in terra straniera. Il suo desiderio è andare alla Semana Negra di Gion. Giusto, Bonini? Gion. Costo approssimativo 2000 euro. Grazie per averci inviato il racconto, Gianni. Stanno continuando ad arrivare i racconti per partecipare a Vendo Anch'io. Se avete voglia di continuare, di farne parte, scrivete un racconto, scrivete una breve biografia, il racconto non più di una pagina. Scrivete un desiderio che volete realizzare. Lo inviate a vendotutto@radio24.it. I 5 migliori racconti verranno a Riva del Garda e nella serata di sabato 19 giugno alle 22 ci sarà una serata finale in cui leggerò i 5 racconti, una giuria deciderà chi è il vincitore. I 5 oggetti lì presenti a Riva del Garda verranno venduti con un'asta attraverso un'asta al pubblico presente e il vincitore del concorso si porterà a casa al Montepremi per realizzare il suo desiderio. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. 80024 0024 3492386666. Prima di cominciare a chiacchierare riguardo all'oggetto che vendo oggi, che è un oggetto particolare, sì, allora già Guido Scotti ha cominciato: è un portafoto o è un portacose? È un portacose, è un portacose. Ok, cioè è un portafoto, però l'ho trasformato in un portacosa. Andate a vederlo su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto oppure sul sito di Radio 24, radio24.it. Ieri sera però io sono andato a mangiare una cosa a un ristorante con un amico e proprio era un ristorante giapponese di quelli piccoli, coi tavolini piccoli, quindi quando sei seduto hai le persone a 20 cm da te. C'era una coppia che si stava lasciando. Io vorrei chiedere una cosa alle coppie che si stanno lasciando: per piacere, non lasciatevi ai ristoranti, ai tavoli dei ristoranti, perché mi è calata una malinconia infinita ieri addosso. C'era lei che chiaramente non gli fregava più niente, lui le provava tutte per dire: guarda, io a un certo punto ho letto, io l'ho capito da come mi baci che non mi ami più. E lei diceva: ma no, ma non è vero. E ha chiuso lei la serata proprio... L'avrei presa a sberle, dicendo una di quelle cose che dice mia nonna quando non sa più cosa dire. Vabbè, andiamo, guarda. Basta farsi del male. E sono andate via. Ok. Discutete delle vostre cose in casa, eh? Perché poi alla fine uno sta male tutta la sera e non riesce neanche a mangiare la sua cena. Chiuso la parentesi, guarda le coppie che si stanno lasciando. Torniamo invece al portafoto o portaoggetti che sia. Questo è uno di quelle... avete presente? C'è un basamento, adesso spiegarlo è un po' difficile. C'è un basamento un po' più pesante, poi ci sono dei braccetti che vengono fuori e hanno delle pinzette. Ci si può attaccare delle foto o dei foglietti, delle cose che di solito si tengono sulla scrivania. Io l'ho deciso di utilizzare in quel modo come portaoggetti perché le foto non mi piacciono, cioè non mi piace avere delle foto in giro, sai, quelli che attaccano tutte le foto, ecco, non mi piace. Ma poi soprattutto perché la mia scrivania è un vero delirio. Tempo fa avevo cercato di capire perché la mia scrivania è un delirio, perché c'è su di tutto, e ho trovato delle motivazioni anche. C'è un sociologo, non mi ricordo più come si chiama, che dice che quello che abbiamo sulla scrivania racconta qualcosa di noi, non solo dice qualcosa di noi ma dice qualcosa sul nostro futuro. Non mi ricordo esattamente com'è la teoria e non sto qui a descriverla, però quello che vorrei da voi oggi, che siete solo quelli che sono al lavoro, perché è facile fare un ponte. C'è festa mercoledì e uno il giovedì e il venerdì sta a casa. Oggi invece c'è gente che è al lavoro. Sono le 16:11 minuti. Mi piacerebbe che voi alziate la vostra testa, guardate la vostra scrivania e mi mandate un messaggio oppure mi chiamate 800240024. Mi dite che cosa avete davanti ai vostri occhi e cerchiamo di capire chi siete e dove andate. Ad esempio, l'hanno già fatto un po' di persone sul profilo Facebook. Michelangelo mi scrive: alzo la testa, due contenitori per penne e matite, bigliette da visita in quantità, PC, lampada, porta CD, segnalibri, post-it, calcolatrice, cuffiette per PC, relativa custodia, spillatrice, 5 pratiche clienti aperte, che mi secca chiudere. Qualche giocattolo di mio figlio, tra pen USB, una mini torcia LED e tanta tanta polvere. 800240024 per condividere la foto della vostra scrivania in questo momento, perché poi quella teoria sociologica dice anche che la scrivania è una roba che cambia in continuazione e quindi ogni tanto avere presente di quello che hai sulla scrivania vuol dire avere presente un pochettino chi sei tu in quel momento. Vediamo chi siete voi oggi alle 16:12 minuti di giovedì 3 giugno 2010. Claudia mi scrive: PC, telefono, due monitor. Vedi, già una che ha due monitor è perché truscia, tiziano, fa la grafica, dice Bonini, non truscia. Blocco per appunti, post-it ovunque, casse, cuffiette, chiavi, bottiglia d'acqua, bottiglia di coca, sono caffeina dipendente, vitamine, lima per unghie, penne, matite, evidenziatori a go-go. Starei qua a leggere tutto il giorno. Paola, libri, riviste scientifiche, collirio, portapenne dei miei figli ricevute per la festa della mamma, cucchiaini per lo yogurt da pranzo, carte. 800240024 349-238-6666. Veniamo al mio portaoggetti o portafoto che sia. Andate a vederlo sul sito per sentire la sua storia, invece eccola qui. Il portacarte a pinze. Portacarte dotato di basamento zavorrato quadrato con 8 braccia in fil di ferro dotate di pinzette portacarte o foto. Dimensioni, altezza braccia 20 cm. Lo vendo insieme a una multa, un abbonamento alla palestra, una Polaroid, una carta d'imbarco, una cartolina, un biglietto da visita. Perfetto come promemoria o per farsi i fatti miei. Valore commerciale 15 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ho già parlato del mio rapporto quasi viscerale con il supermercato vicino a casa mia e con i supermercati in genere. Qualche tempo fa mi ero innamorato di una cassiera che sembrava uscita da un film di Tim Burton. E ancora oggi, quando sono nervoso, mi basta un giro lì dentro per sentirmi un po' più rilassato. La cosa che però mi irrita dei supermercati è la loro intrusività per quanto riguarda le raccolte punti. Io detesto le raccolte punti. Non perché sia contro le operazioni di marketing in genere, ma perché non sono capace di farle. Mi fanno sentire un imbecille. Perdo sempre i bollini che mi consegnano, oppure mi dimentico di attaccarli sulla cartolina, quindi preferisco non pensarci proprio, in modo da non avere i sensi di colpa per essermi perso qualcosa che mi avrebbe dato dei vantaggi, tipo sconti, privilegi di qualsiasi genere. Oltre ai bollini adesivi, però, nel mio supermercato, come in quasi tutti ormai, c'è la raccolta punti automatica, quella della Fidati Card. Per cui, in base alla spesa che hai fatto, sul tuo conto personale salgono automaticamente dei punti che puoi sfruttare come, ad esempio, ricevere regali, spremi agrumi, servizi di posate San Bonè, abbonamenti a riviste, punti mille miglia, qualsiasi cosa, insomma. Quella non è difficile da fare, no? Perché, ripeto, è automatica. Non devi attaccare niente su niente. Devi solo consegnare la tua tessera alla cassa. Il problema però sorge quando è il momento di consumare quei punti, perché altrimenti i punti dopo un po' scadono. Io già un paio di volte ne ho persi talmente tanti che gli avrei potuto prendere una Vespa 125 o un divano letto volendo. L'ultima volta però non avevo alcuna intenzione di farmi fregare. Quindi appena ho saputo che di lì a 2 settimane l'offerta punti sarebbe scaduta, mi sono messo sotto a sfogliare il catalogo dei regali. Quando il giorno prima della scadenza mi sono presentato all'assistenza clienti, convinto di portarmi a casa un piccolo televisore LCD, la signora mi ha gelato, dicendomi che erano rimasti solo un servizio di piatti e un taglierba manuale. I piatti già ce li avevo, l'erba no, quindi taglierbe non mi serviva. E allora mi sono buttato su questo portafoto. Ho perso un sacco di punti, lo so, ma era l'unica cosa di buon gusto in mezzo ad una miriade di cianfrusaglie. L'ho portato a casa, l'ho aperto, me lo sono rigirato un po' fra le mani e lì ho capito. Ho capito che non sapevo cosa farmene, che i regali fatti con le raccolte punti servono a darti l'impressione che i supermercati ci tengono a te e invece non fanno altro che imbottirti di porcherie che abbandonerai subito dietro l'anta di un armadio. I've got my giant market. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. In più, io odio i portafoto. Non lo so il perché, ma non ho mai sopportato le case piene di foto. Avevo una fidanzata una volta che avevo riempito una parete della sua stanza di collage fotografici in cui c'erano lei e i suoi amici, lei e i suoi genitori, lei e i suoi nipoti, lei al mare, lei in montagna, lei in pizzeria, lei nella stanza in cui c'era il collage. Non so che significato inconscio abbiano tutte queste foto, questi collage, però vedersi il proprio faccione in giro per casa mi sembra un'assurdità. Cioè, a cosa serve? Non è che ho bisogno di ricordarmi la mia faccia, mica mi devo riconoscere in mezzo ad altri. Quindi, per non sentirmi troppo pirla e ad avere preso una cosa che non mi serviva, l'ho trasformato in un'altra cosa. Da portafoto a fermacarte. Allora, lo so, il fermacarte è un'altra cosa. È un oggetto pesante che si appoggia sui fogli per tenerli fermi. Ma visto che questo oggetto ha dei braccetti metallici con delle pinzette a cui agganciare delle foto, ho pensato che ci avrei potuto agganciare anche dei fogli o delle cartoline. Lo vendo con tutto, insieme a tutte le cose che ci ho attaccato. Quelle che ci ho attaccato la prima volta e sono rimaste lì, ovviamente, da sempre, a futura memoria. Quindi chiunque si comprerà questo oggetto si porterà a casa anche una tessera per la palestra vicino a casa mia, data aprile 2006, usata una sola volta, con tanto di fototessera di quando avevo 16 anni, credo. Perché non so com'è, ma una fototessera di quando hai 16 anni per gli abbonamenti come questi ce l'hai sempre pronta in un cassetto. Poi, una multa di 153 euro pagata da me, ma intestata a mio padre, perché l'ha presa con la sua auto, passando un semaforo rosso a Pavia. Io pagai la multa, lui si accollò ai 4 punti della patente. Ancora, una cartolina pubblicitaria di una bevanda che si chiama Oblomov, regalatami dai proprietari di una libreria di Santa Maria Capuavetre, in provincia di Caserta. E poi una foto, una Polaroid in cui sono di spalle e sto lavorando al mio vecchio computer. Ancora, un biglietto da visita comprato su un sito inglese, di quelli che te ne fanno automaticamente e te li mandano a casa. Bello, ma che non ho mai usato, perché non sono capace. So come mi viene da scrivere il numero su un pezzo di carta invece che tirar fuori il bigliettino prestampato. E poi ancora, una carta d'imbarco per il volo Delta 161 Milano-New York, posta a sedere 23D in data 28 settembre 2005. Avevo volato con la mia ex fidanzata, fingemmo di essere in viaggio di nozze, per avere due posti vicino. Poi ancora, il biglietto di un bed and breakfast siciliano, che di siciliano non ha moltissimo, visto che si chiama The Best, però c'era stato indicato dal barista del paese che ci disse: guardate, quello è il miglior bread and fasten della zona. Insomma, visto che mi libero di tutto, chi vuole questo portafoto o porta cose se lo prende con tutti i suoi ricordi. Pacchetto completo, il suo valore è di 15 euro, base d'asta 99 centesimi. Se avete voglia di alzare la testa, guardare cosa avete sulla scrivania e raccontarmelo, 80024 0024. Partiamo con le correzioni. Se la città di cui parlavi è quella spagnola di Gijón, si pronuncia più o meno Gijón con le H aspirate, grazie a Paolo D'Asti. Andiamo avanti. Ciao Matteo, io sono un operaio di fabbrica, davanti ho una scatola con i miei effetti. Ti ascolto sempre, Fabrizio da Chiavari. Alzo gli occhi e vedo il forno. Cavolo, sono un pizzaiolo. Per me niente scrivania, Francesco. Alzo la testa e vedo solo l'Ulisse di Joyce. Penna... ragazzi, Ulisse di Joyce qui è Radio 24, non mica Radio DJ. Penna, blocco, appunti, tè freddo, no computer, no foto, registratore portatile con cassetta. Chi le usa più? Te lo domando anche. Sto preparando la mia ultima lezione di ripasso, insegno inglese. Ripasso, credo, insegno inglese. Ciao Matteo, la mia scrivania, come dici tu, cambia continuamente. Passa dal tavolo della cucina per passare al cruscotto dell'auto, perché non ho una scrivania e penso che ogni luogo può essere adatto per scrivere o disegnare. Andiamo invece direttamente dalla voce di Marco a Varese. Pronto Marco? Ciao. Ciao, ecco. Buongiorno. Stai bene? Benissimo, benissimo, magnificamente. Senti, io ho dato un occhio a quello che mi scrivono, che adesso sulla scrivania è un po' mi fa paura, però se me li vuoi spiegare perché hai una pistola e dei pugnali da guerra sulla scrivania, mi fa piacere saperlo. Un Glock molto leggero ed affilato e un altro poi pugnale, anche una mazza da baseball, però benissimo, è Marco. Credo che tu è giusto sapere che stanno tracciando questa telefonata, quindi ovunque tu sia... No, è corretto, ma sono tutti strumenti che utilizzo per il mio lavoro. Cioè, no. Cosa fai? Il ninja? No. Mi occupo di relazioni pubbliche. E... sì, corretto, è vero. Sembra una presa per il culo. E, E la mazza da baseball, ad esempio, è un press kit che abbiamo spedito ad una serie di giornalisti, perché è di un videogioco. Tu non videogiochi, non te ne intendi, ma è un videogioco che si chiama GTA. Sì, sì, è un amico che lo fa e quindi le arriva e scrive di sta roba, è arrivata anche a lui. Quindi, quindi la pistola e i pugnali da guerra invece? Beh, la pistola è legata anche lei ad un invio che avevamo fatto tempo fa, creativo. No, i pugnali da guerra sono una mia passione, quello lo devo ammettere, sono una mia passione, tutto quello che ha affilato mi piace. Ho anche una katana, quella classica di Kill Bill. Beh, certo, chi non ha una katana a disposizione? Quella di Kill Bill, tra l'altro, nel cassetto. Sì, sì, la stessa. E poi del True Blood, che tu saprai cos'è, il famoso sangue sintetico dei vampiri, perché sempre per un mio cliente sto lanciando questa serie televisiva che è True Blood. Ma chi sono i tuoi clienti? Dei serial killer o sono... No, True Blood l'ha lanciato la Warner Bros, dunque la Warner Home Video, perciò è un... Certo, certo. Allora, senti, Marco, ma questa è la tua scrivania di casa o del lavoro? No, del lavoro, assolutamente del lavoro. Cioè, oh, certo, figuriamoci se è a casa dei katana o dei pugnali da guerra, anche se sono la tua passione. No. Dici che lavoro fa esattamente? C'entra chiaramente con la stampa e con... l'ufficio. Assolutamente sì, il nostro mestiere è... far felici voi giornalisti, ecco, in generale. Guarda, purtroppo, per fortuna non sono un giornalista, quindi credo farei felice tutti quelli qua fuori, però ha a che fare con questo, giusto? Promuovere delle cose. L'ultima cosa, Marco, cosa dice la tua fidanzata di questa tua passione? Mi sta distante, non capisco perché quando sono arrabbiato. Potresti fartene un'idea. Buona giornata, Marco, grazie mille, alla prossima. A te, ciao, e io che pensavo che so, un computer, un blocco per gli appunti. Sentiamo Adelfi da Mantova, pronto? Pronto, ciao. Ciao Adelfi, ma tu ti chiami proprio Adelfi o è un nome d'arte che ti sei dato per la telefonata? Adelchi, come lo chiami? Ah, Adelchi, infatti, ok, perché vabbè, semplicemente me l'hanno scritto male o di proposito. tu non hai la scrivania? Attualmente no, non sono più studente, quindi basta scrivanie. Sono un veterinario, giro per stalle e lavoro con la macchina praticamente. E quindi, diciamo, la tua scrivania è la tua macchina? Sì, la mia vita quotidiana è la macchina e tutto quello che contiene, che serve da fare. E quindi che cos'hai intorno adesso, in questo momento, alle 16:25 sulla tua macchina? Beh, farmaci, siringhe, aghi, un sacco di cartacce, penne, tute da lavoro. Senti, ovviamente accatastato in scatole, scatoloni. Hai appena salvato qualche animale o hai fatto partorire qualche cavallo? No, perché alla fine mi occupo di animali da ingrasso, quindi purtroppo li mando tutti al macello. Al destino crudele, al macello, esatto. Cioè, tu li fai ingrassare? Cerco di farlo al meglio. In che modo, scusami? Se si può dire, dandogli il meglio degli alimenti che si possono dare. Però questa risatina sotto mi dà la sensazione che tu gli infili un tubo in bocca, tipo. Va bene, ok. Adelchi, guarda, ci fermiamo qua, altrimenti perdo tutta quella parte di animalisti che seguono il programma. Buona giornata, grazie a te. Ciao Adelchi, andiamo a Modena da Massimo. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Massimo. Tu che lavoro fai? Io faccio il fumettaro. Oh, una persona normale, quindi che c'è una scrivania con tipo delle penne, immagino. Ah sì, un'esagerazione. Dai, facciamo una foto veloce della tua scrivania. Ah, ci sono alla rinfusa, ma proprio alla rinfusa, righe, squadre, accendini, biro, matite, colle, temperini. Ma perché, scusa Massimo, quindi un disegnatore di fumetti disegna ancora con le mani? Ah sì, certo. Cioè, più che con le mani, vabbè, con le mani grazie, ma con i pennelli, con le matite intendo dire. Sì, poi si passa tutto anche in digitale, però è fondamentale il lavoro manuale. Qual è stata l'ultima cosa che hai disegnato oggi? È quella che sto disegnando adesso, che è un omaggio per una ragazza che si sta laureando. Sua mamma mi ha telefonato da Avellino e mi ha chiesto di fare questo regalo. E che disegno è? È un personaggio che da un enorme rotolo di carta igienica sta tagliando dei pezzi di carta stampato con scritto sopra laurea in scienze dell'educazione piuttosto che laurea in legge, piuttosto che sulla, carta igienica. Ok, Massimo. Ironica sulla... Chiaro. Sulla carta straccia. Grazie Massimo, buona giornata. Ciao, alla prossima. Alzo gli occhi e vedo il mio iPad ed è estasi. Ale da Senigallia. Grazie ad Ale, grazie a Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paulino Corleoni. Il mio portafoto ovviamente è sul sito. Domani invece vendo un altro oggetto di cui però non mi ricordo. No, cosa vendo domani, ragazzi? Non me lo ricordo. Ah, domani vendo la bicicletta. Evidentemente avevo scritto male. Voi avete la vostra scrivania è piena di cose, liberatevela di ste cose, che alla fine anche un portafoto è solo un portafoto. Love, love, love, wherever you go,